questo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci, eccoci insieme, sono contenta di arrivare in diretta da Milano questo pomeriggio per RadioTube Social Village dopo una settimana passata a Roma. Parleremo molto della Festa del Cinema di Roma che si sta ancora svolgendo in queste ore, si sta concludendo, tra oggi e domani ci sono le ultime proiezioni, io però sono scappata qui per stare in diretta con voi fino alle 18 per parlare di tanti argomenti. Avremo anche un ospite davvero, davvero interessante, davvero divertente che ci emozionerà particolarmente. Lo so già perché siamo molto contenti di averlo qui, un ospite musicale, non vi annuncio ancora niente. Parleremo anche di Lucca, in questo fine settimana c'è un evento, il Lucca Comics, che coinvolge veramente migliaia di persone, andremo a sentire un po' come sta andando la situazione, parleremo tanto di TV e di serie TV, in particolare nella seconda ora, quella di RadioTube Social Network. Ma partiamo con il cinema, dai, bando alle ciance, partiamo subito con un film che in questi giorni ha colpito tutti. Abbiamo un cliente importante che si fida di noi, che ci paga per fornirgli un matrimonio chiave in mano. Ho detto che volevo qualcosa di sobrio, chic e elegante. Sì, ed è così che sarà. Gente, questa sera ci speriamo una serata sobria, chic ed elegante. Au! Prova, sasso, sasso, sì, quello sì. Mi fa un po' paura. Sulle mani, ho detto sulle mani, everybody. Dammelo. No, no, esca dall'inquadratura, ma guarda quella Befana. La Befana è mia madre? Come te la cavi con Capesante e San Pietro? Sono ateo. Con un rombo? Con la geometria va un po' meglio. Allora, un film presentato alla Festa del Cinema di Roma con tanto, tantissimo successo. Andiamo un po' a curiosare i film più divertenti, più emozionanti, più belli che si sono visti in questi giorni a Roma. Questo è uno dei miei preferiti, chissà se è anche uno dei preferiti del nostro Gabriele Niola che torna a farci compagnia a RadioTube. Ciao Gabriele! Ciao. Eccolo qua, Chiocciola Giniola, per chi volesse seguirlo su Twitter, anche perché così scoprite tutto quello che fa nelle milioni di testate sulle quali scrive, ma io sono sempre contenta di averlo con noi a RadioTube. Allora, C'est la vie, questo film applauditissimo alla Festa del Cinema di Roma, in uscita il 30 novembre, sono contenta di parlare di film che escono prestissimo. A te è piaciuto? Secondo me uno dei campioni della festa. Questo è veramente un grande film, è una commediona, come avete capito dal trailer, francese, dei registi di Quasi Amici, che si chiamano Olivier Nakache e Eric Toledano, sono questi due che lavorano sempre in coppia. Secondo me questo qui è molto meglio di Quasi Amici, di cui non vado proprio pazzo. Però carino. Quasi Amici un successo planetario, quindi questo esatto. Potrebbe bistare il successo? Ma sai, è difficile, no? Non sempre, sai, per avere un grande successo bisogna incrociare tante cose fortunate. Quasi Amici era un bel film, era fatto bene, era carino, era divertente, aveva anche un tema molto giusto, aveva l'integrazione razziale, insomma, c'erano tante componenti che ti portano al successo. Questo è un film molto classico e questa è la sua forza, è un film che avete come l'impressione che magari sia un remake di un vecchio film americano, di quelli in bianco e nero, perché è fatto un po' in quella maniera, c'è un grande matrimonio e noi seguiamo le persone che lo organizzano, che sono questa grande squadra che va dai cuochi agli inservienti fino appunto a quello che suona con la banda, il capo, quello organizza tutto, e ci sono, come spesso accade in questi film, una prima parte in cui ci vengono introdotti tutti questi personaggi, che i protagonisti sono proprio tanti, sono 6-7, ognuno con la sua storia, e poi nella seconda deflagra tutto, cioè il matrimonio, cioè loro faranno di tutto per non farlo andare male, ma ci saranno dei problemi incredibili ed è veramente, veramente divertente. Oh, questo ce lo appuntiamo, C'est la vie 30 novembre. Io ho detto campione della Festa del Cinema di Roma, chissà se verrà premiato dal pubblico, perché è il pubblico che vota a Roma. A proposito di campioni... È uscito 5 secondi fa il vincitore del pubblico. Ah, e non so se si può già dire però, non lo so. Ah, hai ragione tu, cosa no, stavo per fare? Non hai lo diciamo, tu. Non credo che si possa dire, vabbè, lo scopriremo. Stavo per essere bandito da tutti i festival del regno. Del mondo, esatto. Abbiamo detto campione, C'est la vie, campione di applausi, campione di risate, ma ci sono tanti film con campioni dello sport. A te quale è piaciuto in questi giorni? Quale consigli di vedere quando esce al cinema? Beh, sicuramente uno che non nessuno si... Cioè, questo è un po' il momento del tennis, no? Ci sta al cinema già La battaglia dei sessi, che è un film a sorpresa molto bello. Io devo dire, ci puntavo poco. Invece è bello, è quello con Emma Stone, che fa Billie Jean King, grande campionessa, certo, del tennis femminile degli anni 70, e un bravissimo Steve Carell che fa Bobby Riggs, che era anche lì un campione, entrambi vincitori a Wimbledon, insomma... grandi tennisti che veramente si sfidarono per dimostrare chi è più forte tra un uomo e una donna. Chiaramente lui era un pochino più avanti negli anni, lei invece era al momento più dall'apice della carriera, lui inseguiva il successo, lei invece voleva dimostrare qualcosa, e il film esce molto bene. Qui a Roma c'è un film di un'altra grande sfida tra tennisti, vera, che si chiama, non c'è neanche bisogno di spiegare qual è la storia, visto il titolo, Borg McEnroe. Ah, che bello, che bello. Io dico solo che bello. Pazza, fortunatamente esce la prova. Io sono pazza di questo film, un po' sbilanciato su Borg, ma è un film nord europeo tra Danimarca e Svezia. La prossima settimana esce e quindi gli ascoltatori lo possono andare a vedere subito. Film fighissimo. Però c'era anche il pattinaggio. Ah no, a parte che sul tennis e c'era poi... anche il documentario su Bollettieri. Molto bello. E poi è vero, c'è il pattinaggio. Allora, in questi anni, questo film si chiama Aitonia, questo film sul pattinaggio, ma in realtà non è un film sul pattinaggio. Se seguite un po' le cose di cinema, avrete notato che negli ultimi anni è nato un nuovo genere, che prima non esisteva, un genere del cinema americano, che è il, quei film che raccontano dei fatti veri, accaduti più o meno, di solito sono tra gli anni 80 e 90, e anche questo è un fatto degli anni 90 del resto, che li raccontano come una serie di eventi al centro dei quali c'erano degli idioti, per esempio, o magari sono paradossali. The Wolf of Wall Street è uno dei più forti, non c'è un idiota al centro, ma sono eventi talmente incredibili che si fa fatica a pensare che siano veri. Certo. Ma anche, per esempio, Trafficanti, che era un film che era uscito un po' di tempo fa, era così, adesso il film con Tom Cruise, che si chiama Barry Seals, era così, se ne fanno molti. Aitonia è così, racconta la storia vera, magari ve la ricordate se seguite lo sport, di Patricia Harding, che era quella pattinatrice che si fu accusata di aver spaccato il ginocchio alla sua rivale per andare alle Olimpiadi. In realtà saltò fuori che era stato il fidanzato, probabilmente senza il suo consenso, però non si è mai capito veramente. Questa storia ci viene ricostruita da loro, in realtà attori che interpretano loro, ci viene costruita da loro in una girandola di eventi molto divertenti. Si ride tantissimo in Aitonia, specialmente perché sai che sono fatti veri e sono andati realmente in questa maniera totalmente assurda. Sembra un film dei fratelli Coen, ma invece è vero. Allora, devo dire che io non sopporto nei film quando ci sono le persone che fingono di suonare e non sanno suonare. Ah sì sì, posso aggiungere una cosa? Quando tutti dicono, ma lui è bravissimo a suonare, e poi le cose che suonano sono terribili. Ecco, e poi quando fingono di fare uno sport ma non sono capaci. A me sembra che Margot Robbie sia credibilissima come pattinatrice. Assolutamente, perché appunto, ha detto bene, Margot Robbie è la protagonista, fa la pattinatrice e ci sono delle scene di pattinaggio aiutate dagli effetti speciali, perché lei fa una pattinatrice di livello olimpico e chiaramente non è a quei livelli, però secondo me è aiutata dal fatto che non puoi far finta, nel senso che il pattinaggio o lo sai fare o caschi, per cui un minimo sì, evidentemente, no, devi avere confidenza con i pattini. Allora, abbiamo pochi secondi, però io sono rimasta molto incuriosita dal fatto che tu abbia parlato in maniera trionfale, dimmi se eri ironico o no, di un film sul Papa. Allora, ero in parte ironico e in parte no, nel senso che io se lo dico subito, vale la pena dirlo in questo caso, io sono ateo, per cui comunque ricevo questo film in una certa maniera, non ne respingo il messaggio. Tuttavia, essendo un critico, sono molto interessato dal fatto che Papa Francesco è il primo Papa della storia ad aver interpretato un film di finzione, quindi non un documentario su di lui, ma una storia finta in cui lui ovviamente interpreta il Papa, non interpreta un idraulico, ovviamente fa il Papa. E ovviamente è molto marginale, lui compare in due scene molto girate nei suoi appartamenti, scusate, in cui manda un messaggio sulla ricerca di Cristo. Però i cineasti, i produttori sono stati bravi a fare intorno a tutto questo una storia con dei bambini che cercano Gesù e seguiranno un percorso che imiterà un po' le parabole. È veramente un film di messaggi cattolici, vuole essere quello assolutamente. Però insomma c'è il Papa che parla con e comunica con dei personaggi di finzione, quindi di fatto è preso in una storia di finzione. E chiaramente, diciamo così, questo film sta al resto del cinema come le canzoni di chiesa stanno al resto della musica. Devo meditarci perché io non l'ho visto. Io poi magari te lo dirò dal punto di vista opposto, no? Di quella cattolica. E dai, ci confrontiamo. Sono molto molto curiosa. Posso darti una notizia? Possiamo dare il vincitore? Allora, lo diamo. Il direttore Antonio Monda ha proclamato il vincitore del Biennale Public Award. Vero? Mamma mia, Borg contro McEnroe. Borg McEnroe ha vinto la Festa del Cinema di Roma, il premio del pubblico. Bello, bello, sono molto contenta. È un gran film. Grazie Gabriele per essere stato con noi. Grazie a Gabriele Niola. Allora, noi ti seguiamo su tutti i tuoi social. Basta andare a cercare su Twitter @giniola, così vedete tutte le sue recensioni sulle quali io sono sostanzialmente quasi sempre d'accordo. Mi piace molto leggere Gabriele. Grazie Gabriele, alla prossima. Prego, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco ancora con la Festa di Roma. Allora, Borg McEnroe ha vinto, sono molto felice. Tra poco ci ritroviamo. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta RadioTube Social Village. Questo è il contest del secolo. No. Tu ti iscrivi al sito, posti il messaggio e loro te lo mandano nello spazio. Sei qui per un colloquio di lavoro. Teletrasporto! Sono stato rapito dagli alieni! Facci il caffè per tutti e tre! Ma sotto come grafico nello spazio! Una figata pazzesca, Fabio, la dovevi vedere! Andiamo a fargli il culo! E torniamo alla Festa del Cinema di Roma con un film che uscirà il 9 novembre, quindi subito alla prova del pubblico. Allora, noi li abbiamo seguiti fin dai loro quasi primi video su YouTube con RadioTube negli anni scorsi, li abbiamo ospitati, abbiamo seguito la loro crescita, il loro successo sempre crescente su YouTube, e poi hanno fatto il salto al cinema. Ragazzi, un salto nel buio, un po' perché contro gli YouTuber ci sono sempre i fucili puntati, un po' perché questi pazzi hanno fatto un film di fantascienza. Addio fottuti musi verdi, i The Jackal, e noi siamo in collegamento con il regista Francesco E Basta. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, buonasera. Allora Francesco, com'è stata questa Festa di Roma? Voi eravate un evento speciale in Alice, cioè la sezione dedicata ai ragazzi, che sono dei critici attenti. Esatto. Che esperienza è stata? Sorprendente, guarda, siamo rimasti davvero molto felici dall'accoglienza, perché in sala c'erano più di 1000 persone. Ci sono stati diversi minuti di applausi. Noi non siamo abituati ad un contatto così diretto con le persone, ma a uno un po' più freddo sulle nostre piattaforme internet. Quindi siamo rimasti piacevolmente sorpresi, ecco, da questo calore. Sembra che il pubblico abbia gradito e abbia capito lo spirito del film, che è uno spirito molto ludico, di intrattenimento, che gioca un po' con il genere di fantascienza. Non tutti i critici l'hanno capito però, eh? Voi come avete preso le critiche? Molte sono state anche feroci, e io ho pensato anche che, ve l'ho detto subito, ve l'ho detto anche nell'intervista che abbiamo fatto insieme all'auditorium, contro gli YouTuber ci sono sempre i fucili puntati, eh? C'è un po' di diffidenza. Voi siete stati estremamente coraggiosi. Sì, è vero, se dovevamo fare un salto lo dovevamo fare abbastanza lungo, insomma, anche perché ci piace molto divertirci e metterci alla prova. Ho apprezzato molto le critiche, tra cui la stessa di Niola, che insomma sembra abbiano colto l'anima del progetto, però non ci facciamo spaventare, perché innanzitutto divertirsi, cioè proviamo a divertirci noi primi per far poi divertire gli altri. Speriamo che questa cosa, dati i risultati alla proiezione, arrivi anche nelle sale il 9 novembre, questa voglia di divertirsi, di intrattenersi con un film che secondo me è molto spassoso, molto, molto divertente. Io concordo, soprattutto da un certo punto del film in poi mi sono divertita davvero come una pazza. Ci sono degli elementi, diciamo dei protagonisti a sorpresa, che a me piacerebbe che restassero a sorpresa, perché c'è soprattutto un attore, poi uscirà sui giornali, però io vorrei che non si sapesse chi è, perché davvero ci sono degli elementi di grande stupore. E poi c'è questa fantascienza, ci sono gli effetti speciali. Però, vabbè, voi al di là di YouTube siete dei professionisti del video e dei film, però gli effetti speciali e la fantascienza sono una sfida grossissima, cioè non è che si fanno, sì, quindi... è vero. Ma quando avete chiesto di fabbricare dei robot, cioè in Italia non so nemmeno se ci sia un fabbricatore di robot per i film. No, sono tutti problemi a cui poi ci siamo che abbiamo poi dovuto affrontare, perché in effetti tutte le società di produzione di effetti visivi, di post produzione di effetti visivi e di produzione di effetti speciali, incluso lo stesso robot, si sono poi trovati di fronte ad un caso raro, un'eccezione, nel senso che quando ti rechi da loro e chiedi magari, non lo so, un modello 3D di un'astronave o un prototipo di robot già in cantiere, nessuno ha nulla, perché semplicemente in Italia non si fabbricano queste cose. Quindi quando ti parlo di spirito ludico, mi riferisco anche agli addetti ai lavori che si sono ritrovati per la prima volta sul set di questo film ad affrontare delle piccole sfide con il budget e i presupposti di un'opera prima, che magari erano il motivo per cui hanno iniziato questa carriera. Cioè magari inizi a fare effetti visivi perché un domani sogni di poter realizzare un'astronave, cosa che difficilmente ricapita in questo panorama. Quindi ci siamo divertiti anche in questo senso, perché abbiamo fatto delle robe che prima d'ora non si erano viste prima, e devo dire con dei risultati molto bravi. Ci sono state 4 società di post-produzione che ci hanno accompagnato e i risultati sono stati molto soddisfacenti. E gli appassionati di The Jekyll e dei loro video, come gli effetti di Gomorra sulla gente, insomma i vostri formati di YouTube, ritroveranno qualcosa nel film? C'è qualcosa seminato nel film, perché non potevamo lasciare fuori una community che ci segue ormai da 10 anni. Noi siamo dal 2005, se non sbaglio, quando nacque YouTube sulle piattaforme, e quindi abbiamo seminato degli easter eggs, delle piccole sorpresine che magari possono cogliere qui e lì sparse per il film. Però il film è un film non per i fan di Jekyll, per chi vuol vedere una storia di fantascienza con uno sfondo comico. Di commedia, quindi diciamo che abbiamo provato ad unire quello e quello, raccontando una bella storia che avesse anche un'indipendenza, una capacità di reggersi sulle proprie gambe, anche per chi non conosce The Jekyll. Posso dire anche comico, perché ci si diverte anche molto. Grazie Francesco, salutami anche gli altri The Jekyll. Francesco Basta, che è il regista di Addio fottuti musi verdi, e si capisce che è un film di fantascienza molto particolare. Vi dico solo che i robot fanno anche il caffè, perché dopo tutto i The Jekyll sono napoletani e qualcosa ci deve essere. Spero che il resto rimanga una sorpresa. Grazie Francesco, grazie per voi, essere ragazzi. Stato con noi. Ciao. A Francesco, presto. Grazie. Ciao, ciao. Adesso per noi è il momento di partire, un breve viaggio, beh, insomma, come tutti i sabati a quest'ora dobbiamo andare a scoprire una località italiana. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Oggi vi proponiamo uno stupefacente itinerario tra i capolavori nascosti di Milano, percorribile anche a piedi, in una sorta di anello che ha come centro immaginario il Duomo. E la prima tappa sono proprio loro, gli Omenoni. Scolpiti dal grande artista trentino Antonio Abbondio, questi giganti di pietra accolgono con burbera benevolenza i visitatori che giungono nella via a loro dedicata, a 2 passi dalla scala. E come sempre a Radio 24 a quest'ora è il momento di partire. Andiamo a fare un viaggio, prepariamo la valigia, e chi ci fa compagnia? Ovviamente ci fa compagnia Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita. Ciao Marta. Annarita, dove andiamo, ci porti vicino oggi? Oggi andiamo tecnicamente vicino, ma insomma per i nostri ascoltatori non lo so. Restiamo in Lombardia per parlare di una Milano in musica da qualche giorno, e lo sarà ancora per qualche giorno, per la precisione fino al 12 di novembre. C'è una manifestazione molto bella e noi ne approfittiamo per ovviamente lanciare la nostra radioguida in collaborazione con il Touring Club, che si occupa dei luoghi nascosti della città di Milano, e ce ne sono tanti, tantissimi tesori da visitare, quindi scaricate, ovviamente l'invito è sempre lo stesso, la nostra radioguida. Ma in questi giorni a Milano non potete non partecipare a Jazz Me, il festival diffuso di jazz in città. Noi abbiamo in collegamento, lo ringraziamo, il direttore artistico Luciano Linzi. Salve. Buon pomeriggio, grazie a voi e agli ascoltatori. Allora, la prima edizione del 2016 è stata un successo. Quest'anno Jazz Me ritorna ed è ancora più vasta. Sì, siamo montati la testa, no, scherzo, ovviamente. L'anno scorso è stata una sorta di numero zero del festival. Abbiamo, insieme all'altro direttore artistico Titi Santini, a Ponderosa, che lo produce, insieme alla Fondazione CRT Teatro dell'Arte e Brunot, il Comune di Milano, ovviamente nell'assessorato alla cultura, immaginato che fosse il momento di riportare un grande festival jazz nella città di Milano. Milano ha una lunghissima storia d'amore con il jazz che non è mai terminata, ma mancava da quasi 20 anni di una manifestazione di questo calibro e di questo respiro. Quest'anno abbiamo quasi raddoppiato gli eventi, sono 150 diffusi in tutta la città, dal centro alle periferie, in luoghi abituati ad ospitare eventi musicali, ma in tanti altri che invece abitualmente non lo fanno. Ecco, la cosa bella è che ci sono delle iniziative un po' per tutti, persino per i bambini. Questa cosa mi ha incuriosito. Sì, l'idea di questo festival è ovviamente di avere una formula moderna, contemporanea, quindi non proporre semplicemente un elenco di concerti importanti con artisti affermati, artisti giovani, emergenti che riteniamo debbano costruirsi così un proprio seguito, una propria attenzione, ma anche a proporre degli spazi che facciano aprire al pubblico più vasto l'amore, l'interessamento, la curiosità per questa musica affascinante. Marta, tra l'altro, insomma, è un calarsi totale, perché ci sono anche dei film, ci sono anche dei libri. Beh, io sono pronta, sono curiosa, quali sono i film che ci raccontano il jazz? Ma abbiamo fatto una selezione ancora più ampia dell'anno scorso, abbiamo cercato di mettere insieme alcuni titoli che non fossero mai stati visti in Italia o addirittura appunto qui a Milano. Cito fra i molti il titolo I Call Him Morgan, è un documentario americano sulla vita e la vicenda umana personale di uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, che è Lee Morgan. È un film documentario che è stato presentato anche al Festival di Venezia, che è in odore di essere candidato all'Oscar come miglior documentario. È un documentario che racconta davvero dal di dentro la dimensione dell'essere musicista jazz, raccontato attraverso i suoi protagonisti, quindi essenzialmente proprio i musicisti. Luciano, allora, appuntamento fino al 12 di novembre in tutta Milano, anche nelle periferie, come hai detto. Grazie. Grazie a voi. E grazie anche a te, Anna Rita. Al prossimo sabato. Alla prossima. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Radio Tube Social Village. Allora, io sono molto contenta di avere un ospite con noi, perché esce in questi giorni con questo cofanetto che io ho tra le mani, mi sono anche fatta autografare, perché compie 40 anni, una delle sue canzoni più famose, ma soprattutto una canzone che è nel cuore di tutti. Sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Questo è un capolavoro. Io lo dico senza tema di smentita, perché tanto siete d'accordo tutti. Questa è una pietra miliare, è un pezzo fondamentale della nostra storia, che compie 40 anni, ma in realtà è come se fosse di ieri, anzi di domani. E io sono molto emozionata, perché io lo sto ascoltando insieme a voi, lo sto anche un po' canticchiando, ma accanto Alan Sorrenti. Alan, buongiorno! Buongiorno, grazie. Ma senti, è qualcosa che sorprende anche me, perché io non potevo prevedere, non sono un profeta, non potevo prevedere che vivesse tanto questo brano e che trovo un entusiasmo così. Anche così come se fosse ieri, insomma, forse più di ieri. Più di ieri, dici? Perché poi tra l'altro ci sono quelli che l'hanno vissuto all'epoca, quelli che erano bambini, quelli che erano grandi, quelli che l'hanno ballato in discoteca. E qui nei corridoi di Radio 24 c'era qualcuno che lo fischiettava e non era nato 40 anni fa, ma non era stato neanche pensato 40 anni fa. È vero. Beh, deve toccare una corda speciale, secondo me. È una corda invisibile che abbiamo dentro. Quindi siamo davvero figli delle stelle? Allora non sapevo che avevamo questi elementi delle stelle quando ho avuto questa parziale illuminazione. E poi invece la scienza l'ha approvato. Tra l'altro quando tu sei uscito con Figli delle Stelle hai anche fatto scalpore perché il tuo passato, nonostante tu fossi ancora giovanissimo, però il tuo passato era molto diverso, avevi fatto prog, avevi fatto sperimentazioni, avevi fatto studi di musicologia. Sì, vabbè, il prog, che poi è stato definito prog, è senz'altro stato forse il momento creativo italiano più forte. All'inizio di questa esperienza è stato molto importante per me un certo Tim Buckley, un cantatore californiano, padre di Jeff Buckley, erano molto simili entrambi, ed è stato proprio il fatto di volerlo conoscere, perché per me è stato importante in quei periodi vocalmente, che mi ha portato poi in America. Però quell'anno morì e comunque io ero diretto in ogni caso in California e ho continuato il mio viaggio. E lì ho trovato le stelle in terra, cioè per stelle in terra intendo grandi musicisti. Figli delle Stelle però all'apparenza è una canzone semplice, una canzone pop, una canzone da ballare. Poi ovviamente gli strati sono molti e soprattutto questo sound di Los Angeles era un sound nuovo. Però qualcuno l'aveva presa come quasi un tradimento, come un esperimento commerciale? Sì, perché si vivevano anni particolari, anni in cui poi la musica man mano veniva, quella nostra musica, veniva man mano politicizzata. Per me questi erano dei limiti, dei freni, e quindi non potevo far altro che andar via e esplorare nuove cose. In una realtà italiana estremamente politicizzata era un cambiamento che probabilmente non riusciva a concepire. E infatti Figli delle Stelle non è un pezzo, come tu hai detto, non è poi un pezzo commerciale così, insomma, il solito pezzettino. Poi non era un pezzo disco. Oggi, perché in Italia una cosa che faceva ballare si diceva subito disco, invece come giustamente hai detto era invece un Los Angeles sound, era, io lo chiamo funky pop soul. Che faceva muovere senz'altro, ma la disco era altro. Allora è stato preso come un'operazione commerciale. Io quando ho avuto questa connessione con le stelle, mi è venuto fuori, le parole sembravano uscire da sole, mi accorgevo di avere qualcosa di speciale nelle mani, cioè voglio dire, però non prevedevo naturalmente tutto il resto. Eri un ragazzo, ti sei trovato in cima alle classifiche per 6 mesi. Questa cosa Che impatto ha avuto sulla tua vita? Beh, ho presto realizzato che la dimensione della pop star non faceva per me. E quindi questo ha caratterizzato poi inevitabilmente il futuro. Perché c'era una voglia di ritornare al rock poi dopo. Cioè, continuava la mia inquietudine, se vuoi, dell'outsider. L'outsider è uno che entra, esce dalle situazioni. In realtà non appartiene a nulla. Tu sei ancora affezionato a Sei l'unica donna per me? Sì, non potrei non esserlo. Poi mi dicono, io infatti dico, ma non sarà troppo banale quel testo così? No, assolutamente, mi diceva una donna, questo è tutto quello che una donna si vuole sentire dire. Verissimo, perché... guarda, sottoscrivo. Cosa pensi quando, non so, d'estate si accende la TV, ci sono i filmati d'epoca e viene fuori un Alan, questo bel ragazzo con i baffi che balla. Una certa impressione. Che cosa ne pensi? Che cosa gli leggi negli occhi? Cosa gli leggi negli occhi? Beh, leggo che la natura è rimasta quella. Profondamente riesco a leggere la mia natura lì, in quello che vedo. E poi esteticamente, naturalmente, cambiano tante cose. Però dico, bel ragazzo, dico, e come vestivi bene, poi oltretutto. No, perché sì. Allora era importante, perché c'era una convergenza di cose che hanno fatto sì anche Figli delle Stelle fosse poi esplodesse così. il periodo della moda a Milano. Milano era la Milano che esplodeva nella moda. Io vestivo in quei filmati bianco, eccetera. Lì era Versace alle prime cose che faceva. E quindi c'era una convergenza di cose che hanno creato questa forza. Non sarebbe mai potuto partire da Roma, figli delle stelle, era Milano la piattaforma. Infatti è Milano nella copertina. Ah, ecco. E le luci sotto, vero, non sono, vero, New York, ma è Milano. È vero, è vero. Alan, adesso, visto che peraltro ci saranno tanti ragazzi che ti ascoltano per la prima volta, cioè ti troverai un pubblico anche nuovo adesso con questo compleanno di Figli delle Stelle, adesso cosa vuoi fare? Tu dici da ora in poi? Ma sì, quando sono grande. Sì, esatto. Ah no, io vorrei questo percorso nuovo che sto intraprendendo è in fondo è un triplice progetto che dalla fase di Figli delle Stelle, l'anniversario, si passerà a marzo alla fase prog. Quindi la riproposta nello stesso formato, con masters addirittura ritrovati in cui canto le stesse cose in inglese, quindi sarà molto ricco quel progetto, fino ad arrivare poi a ottobre 2018 con il nuovo con la fase pop, quella che abbiamo appena accennato, LA, New York, di notte c'era, no? Non so che dire, via. E in questo percorso che io ho trovato utile per ricostruire, soprattutto per i giovani naturalmente, ma anche per quelli che hanno partecipato alla fase prog, alla fase Figli delle Stelle, perché è bello ricordare e rivivere e probabilmente risentire, sai, quegli slanci, quelle emozioni di nuovo. Però è un percorso che era utile per me per riproporre nuovo. Che naturalmente su cui sto lavorando da qualche anno anche, perché il nuovo deve uscire dopo che c'è stata questa, comunque, o durante questo percorso, perché bisogna capire un pochettino, si capisce il nuovo se capisce anche da dove vengo, che cosa ho fatto, camminavo per una strada dove abito di Roma, di notte c'era un gruppo di giovani felici che cantava Figli delle Stelle e mi faceva sorridere questa cosa. Io ritornavo da probabilmente una serata in un club e sono rimasto sorpreso. Naturalmente, sentiti per strada, non c'era nessuno, cantavano solo loro questa notte calda, era credo estate, e io sono passato vicino e non mi hanno riconosciuto. E lì ho capito che la canzone viveva, ma chi era che il personaggio, chi era quello che l'aveva fatta, insomma. Ecco, quindi questo mi stimola naturalmente a ripropormi, a riproporre delle cose, ma sempre sul piano dell'attualità. Non potrei mai fare niente di nostalgico assolutamente oggi. Io ho ancora voglia di ballare Figli delle Stelle, te lo confesso, e aspetto il video, lo facciamo. Ecco, ma il video di Figli delle Stelle, che abbiamo, questo originale che si è finalmente ritrovato dalle macerie. Sì, però c'è anche il video che ho appena finito, prima di venire qui, pensa un po'. Beh, vedi. Quella quindi... su una Figli delle Stelle speciale, che ho voluto fare proprio per celebrare questo anniversario. In chiave poetica, c'è una Figlia delle Stelle che io chiamo la Sinfonia di Figlia delle Stelle, c'è fatto con archi, piano, che permette, il mio bisogno era quello di evidenziare il testo, la poesia del testo, che probabilmente qualcosa non si era perso nell'ascolto poi totale del brano, perché evidenzia la nostra solitudine universale, in effetti. Noi ci incontriamo e poi ci perderemo nel tempo, no? C'era questa velata malinconia. E questo, in questo mood, in questa sinfonia, viene fuori in modo speciale. E il video è su questo, quello che ho appena finito, che vedrete fra un po'. Sono curiosissima. Grazie, davvero grazie, Alan Sorrenti. Grazie, onorata di averti avuto con noi. Grazie. Grazie a te, anch'io. Molto piacere. Ciao. Sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna. Vabbè, volevo sentire anche Tu sei l'unica donna per me e cantarla a microfono chiuso. Beh, allora, Alan Sorretti. E basta il nome, è veramente una leggenda qui con noi a RadioTube. Una brevissima pausa, il traffico e poi saremo ancora insieme, saremo ancora figli delle stelle, ma andremo a Lucca tra poco. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... RadioTube Social Village. Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, son tre ladre abilissime, molto sveglie, agilissime, con astuzia e perizia, ed unendo sempre un poco di furbizia, riescono sempre a fuggire e nel nulla sparire. Di gatto, cantata da Cristina D'Avena insieme a Loredana Bertè, perché è il primo dei duetti di questo disco Duets che sta per arrivare. Ce l'aveva detto, vi ricordate, prima dell'estate, che Cristina D'Avena avrebbe fatto una, ci avrebbe fatto una sorpresa a novembre, e così è stato. Allora, Cristina D'Avena al Lucca Comics, già mi dicono che c'è una folla pazzesca a Lucca per questo evento che noi seguiamo sempre con grande affetto, perché magari i mezzi di informazione se ne occupano meno che di altri festival, ma a Lucca Comics, questa occasione in cui si ritrovano tutti quelli che sono orgogliosamente nerd, appassionati di cartoon, di fumetti, di videogiochi, non lo so, di cosplay, di tutte queste cose si ritrovano, e davvero davvero in tanti. Allora andiamo a Lucca, andiamo a trovare un amico che noi sentiamo spessissimo per le serie TV, ma le serie sono solo uno dei suoi tanti tanti interessi. Scrive tra gli altri per La Stampa, ma insomma per un sacco di cose. Gianmaria Tamaro, ciao Gianmaria. Ciao, eccolo Marta, qua. Come stai? Io sto bene, tu come stai? Sei travolto dalla folla? Sei riuscito a metterti un po' a riparo? Allora, io mi sono messo un po' a riparo, però appena mi sono messo a riparo una banda di banda Bassotti che fanno i musicisti mi si è avvicinata, quindi penso che a breve sentirete. Ma vestiti da banda Bassotti potrebbe essere, sapendo che Lucca Comics è È una banda vestita da banda Bassotti. Giustamente, perché è Lucca. Quindi, ma tu sei vestito normale, Gianmaria? Ti sei vestito da Gianmaria Tamaro? Io sono vestito da giornalista. Ah, ok, anche quello è un bel cosplay, un bel travestimento. Allora, come sempre, il delirio a Lucca Comics, tantissime cose da vedere, appunto, fumetti, cartoon, ma anche serie TV, visto che appunto noi ti chiamiamo spesso per le serie TV, c'è qualcosa di nuovo sul fronte delle serie lì a Lucca Comics? Allora, qui a Lucca Comics per la prima volta c'è stata Netflix, per la prima volta in Italia, ha portato due delle sue serie più seguite. Una che è Stranger Things, che penso che avranno visto tutti con la sua seconda stagione. L'altra invece è Star Trek Discovery, che è una produzione di CBS e che qui in Italia, come in altri paesi del mondo, viene distribuita da Netflix. Sono stati eventi interessanti, io ho avuto il piacere di moderarli, di seguirli in prima persona con il cast delle due rispettive serie. Il pubblico si è divertito molto. Ecco, interesse del pubblico forte? Molto forte. Ti dico che qui Netflix ha fatto anche un'installazione che è praticamente hanno ricreato il sopra, e la fila arriva fin sopra le mura della città. Quindi ti dico che qui c'è il tema Stranger Things è molto molto seguito. Poi Star Trek non ti dico. Nel cast c'è anche Jason Isaac e il Lucius Malfoy di Harry Potter, i nerd, non ti dico, anch'io, io stesso quando ho moderato ero impazzito dalla gioia di stare vicino a icone della cultura pop. Così. Icone, allora lo anticipo, nella prossima ora in RadioTube Social Network parleremo molto di The Walking Dead. C'è stato qualcosa di importante anche a Lucca? Sì, qui c'è ancora, anzi, perché ripartirà, se non sbaglio, lunedì Robert Kirkman, che è l'autore di fumetti che ha creato The Walking Dead, ha anche scritto alcuni degli episodi dell'omonima serie, è il produttore. Ed è con la sua Skybound, il suo accordo con Amazon, uno dei prossimi, diciamo così, protagonisti della serialità. Quindi è una delle grandi menti, giovanissimo tra l'altro, lui 38enne, una delle grandi menti dei racconti che stanno popolando la televisione. Fumetti, visto che Lucca Comics, insomma, nasce anche da lì, nasce anche soprattutto da lì, cosa c'è di nuovo? Allora, ci sono tantissime cose interessanti, ti dico. Qui stamattina la fila era lunghissima per Leo Ortolani, è finito, come sappiamo, la serie di Rackman. Sì, guarda, noi l'abbiamo celebrato, festeggiato con una lacrimuccia per l'ultimo album di Rackman. E qui ha portato C'è spazio per tutti, che è questa storia che è stata fatta insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, dove Rackman nello spazio incontra Paolo Nespoli, che è il nostro astronauta che è sulla stazione internazionale. È quello che poi verrà portato proprio che è stato portato sullo spazio. È quello che Nespoli ha mostrato, sì, sulla stazione. Senti, invece per gli appassionati, sì, ad esempio, non so, di Dylan Dog, visto che noi l'abbiamo seguito tanto e abbiamo anche dedicato un bel radiodramma l'anno scorso a Dylan Dog. Allora, Dylan Dog l'anno dopo il trentennale, perché l'anno scorso Dylan Dog ha compiuto 30 anni, ha portato, grazie al suo curatore che è Roberto Recchioni, questa serie speciale di Graucini. Sono 12 numeri più uno speciale solo qui per Lucca, curato da Tiziano Sclavi e da Castelli, quindi due leggende della Sergio Padre del Vittore. Sono dei numeri ad hoc creati sul personaggio di Graucio. E quindi, insomma, hanno esplorato una di quelle figure, la spalla comica di Dylan Dog, che è una delle più apprezzate dei fan. Ed è stata una bella novità, raccolta in un bel volumone, una bella edizione per tutti gli appassionati. E poi ho letto anche di Collane Nuove, vero? Sì, qui Tito Farace ha portato, la prima volta in assoluta, in anteprima in un certo senso, la Feltrinelli Comics, che è la collana della Feltrinelli dedicata ai fumetti. E ha anche presentato i primi libri, tra cui la nuova graphic novel sempre di Roberto Recchioni, A Panda Piace di Giacomo Bevilacqua. È un bellissimo progetto che si chiama Salvezza, che sarà un reportage a fumetti firmato da due autori che partiranno il prossimo 10 novembre su una ONG, su una nave che girerà per il Mediterraneo, portando in salvo gli immigrati. Quindi sarà una documentazione diretta a fumetti di uno dei temi più attuali che ci sono. Allora, intanto vedo che la banda Bassotti non ha ancora iniziato a suonare, quindi ti posso rubare ancora qualche secondo, perché so che domani sarà il giorno di Zero Calcare, uno dei più amati autori di graphic novel italiane. Che cosa combina Zero Calcare? Allora, Zero ancora prossimamente a metà novembre presenterà il suo nuovo libro a fumetti, sempre edito dalla Bao Publishing Macerie. Domani per la prima volta verranno mostrate alcune scene, alcune immagini del film tratto dalla profezia dell'armadillo. Ci saranno anche il regista e i due attori protagonisti, quindi sarà una prima lucchese per uno dei film, penso uno dei film più attesi dai fan, sia di Zero ma anche di chi legge fumetti, perché è una delle trasposizioni di cui si parlava da tanto tempo. In un primo momento doveva essere Valerio Mastandrea a dirigerla. Mastandrea è rimasto all'interno del progetto e comparirà, da quello che sappiamo, nel film. Fantastico. Mastandrea, che oggi abbiamo visto alla Festa di Roma, protagonista di The Place, un film molto particolare che ha diviso molto. Vabbè, insomma, ne parleremo la prossima settimana. Grazie a Gian Maria Tammaro. Allora, io vi ricordo sempre il suo account di Twitter. È un po' difficile, però è Gian, scritto con la I lunga, trattino basso, 91, così trovate tutto quello che lo riguarda. Grazie Gian Maria. Grazie. Salutami la banda Bassotti. Ciao. assolutamente sì. Ciao Gianmaria, divertiti a Lucca, grazie. Buona trasmissione, ciao a tutti. Grazie Gianmaria per essere stato con noi. Allora, tra poco il giornale radio delle 17, voglio rispondere all'ascoltatore che ha detto un po' piccato: ah, ma insomma, si vede che gli stupidi eravamo noi che ascoltavamo PFM al posto di ascoltare il filosofo poeta Sorrenti. No, a parte il fatto che si possono ascoltare tutte e due, ma vorrei invitarti a scaricare il podcast di 140 caratteri della scorsa settimana, perché avevamo ospite proprio la PFM, quindi non ci facciamo mancare nulla. Allora, linea tra qualche istante a Piera Ceci per il giornale radio delle 17 e poi la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.